ci sono amori invisibili contro cui mi schianto, ci sono i sorrisi finti che nascondono un pianto. Studio il vostro comportamento che sono obbligato ad imitare, non so fingere a tele ma dovrò imparare. Ci sono limiti che non posso oltrepassare, ci sono tanti modi ma non si possono visitare. Sono uno dei tanti ma non funziono bene, sono uno dei tanti ma non sopporto più le catene. Sono difettoso, un problema, un'anomalia, sono un errore, un peso, sono l'anarchia. E tanti tiro su questa strada scura, cerco di stare calmo, ho tanta paura. Ci sono momenti in cui non mi so controllare, il cuore corre veloce, non può rallentare. Vogliono addormentarmi per cominciarmi a stare tranquillo, vogliono distrarmi e coprire ogni strillo. Vogliono che mi accontenti della superficialità, ma la loro droga su di me non funzionerà. Sono uno dei tanti ma non funziono bene, sono uno dei tanti ma non sopporto più le catene. Sono difettoso, un problema, un'anomalia, sono un errore, un peso, sono l'anarchia.